esco oggi. So la larga dei problemi vostri, fermi negli stessi posti. Un'altra giornata mi passa davanti, come una modella, una sfilata che gira sui tacchi. Lei mi dice non mi fare male, questi erano i patti. Io le dico non lo faccio apposta, scendi o faccio tardi. Che poi non ne possiamo parlare adesso, se mi stoppi tipo alla canestro. Però poi a cena mi mangi vivo e a non darti ragione non ci riesco. Mi do la colpa, mi do la colpa, perché sono diventato freddo come un iceberg. Quando è finita l'ultima volta, sono in caduta senza una sosta, yeah. No, no, no, sotto al palco il fuoco, la fine del mondo. Poi se scendo in strada fra mi sento solo. Vorrei fermare il tempo anche per un secondo, per non far più terminare questo giorno. Voi non siete come me, voi non siete come me, no, no. Voi non siete come me, voi non siete come me, no, no. Voi non siete come me, voi non siete come me. Voi non siete come me, voi non siete come me. Oggi non esco, oggi non esco, no, no. Non ci riesco, sarò onesto. Zero. Pago il successo a caro prezzo, cash, cash. Voglio una pausa da tutto questo, hey. Non sto mai più di un tot di tempo in mezzo alla gente normale, zitto sorridendo. Dopo un posto di saggio sento i corpi dentro. Essere un tipo strano per me è un complimento. E vorrei fermare il tempo quando stiamo insieme, con niente da fare che va tutto bene. Come quella volta al mare con il cutre nuovo, leggisi lunari in estate sul duomo. Sì, vorrei fermare il tempo però non c'è modo. La vivo al doppio, c'ho il fuoco addosso, due canne nel cappotto. Andiamo a cena che l'aperitivo era in salotto. Puzziamo così tanto d'erba, sembra bergamotto, hey. Sono io perché non sono come gli altri, no, no. Come loro, come tutti quanti. No, no, no. Sotto al palco il fuoco, la fine del mondo. Poi se scendo in strada fra mi sento solo. Vorrei fermare il tempo anche per un secondo, per non far più terminare questo giorno. Voi non siete come me, voi non siete come me, no, no. Voi non siete come me, voi non siete come me, no, no.